E chi è? E chi è? Chi è? Buonasera. Sembra buona la sera. Leggio, non si vede. Sì, va bene. Un po' caldo, io ve. So, meglio da rimanere già. Ah, io non rispetto, io sto caldo, sto. Sto tranquillo, per cui tu stai freddo, così. Ma io sono al caldo. Guarda a te, io già so che ho un caldo romantese, facevo tempo si fuori vicino, quindi già so com'è. Andiamo bene, andiamo. Ah, sto tranquillo, guarda, meglio così sto. Più meglio così lo si può stare. Cazzo, non è significativo. Ciao, Lu, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera anche a lei, signor Luca. Certo. Passa io là il filo, fissato, passa a rodare Roma a pesci. E lui, lui mi ha toccato a me. Ma fa toccato nulla? Te l'ho giudizio io, bisogna essere fortunati per toccarti. Sono Gio Maria. Eia, eia. Va. Va bene, mi tocca il centesimo, non già mi fa. È una concentesima che cosa. Andiamo, bobo. Ah, io ci vedo in tutto che c'è più 3D. Ah, me. Bisogna curare tutto Gio Maria e te giurai. Vabbè, a meno che non fa vedere una manca. Buonasera a tutti. Buonasera anche a lì. Signor Gianni. Oh, yeah. Mi è toccato qualche cosa, lasciamo stare a lui, tutto quanto. Pure la signor Gianni ha toccato qualche cosa, vero già? E di cosa? E di cosa si ti fa vedere? Non lo so che cacciate già. Di centesimi. E che cosa gli ha mai toccato di subici, dai? Andiamo, vai, andiamo. Dai, vai. Tocca. Ok, è giubilata la tredicesima. Ma non mi ha toccato nulla. Già la giubilata, ha derrettato, ma già la giubilata. E lui non l'hanno impagato. Non l'hanno impagato che c'è una te macca la finita e mi sono giubilato un raio. Poi la Gio Maria. Non è che la gli hai scelta. Me l'hanno impagata. Me l'hanno accreditata la sera a me, me l'hanno accreditata. Cioè, a me me l'hanno accreditata la sera, ha già fatto un casino. Dice, non è colpa nostra, è colpa della banca, del Banco di Sardegna. Hai compreso? A me me l'hanno pagata il 3 di mattina. Guarda a te, a me me l'hanno pagata la sera, tutta la sera. Tredicesima è la pensione, tutto di sera. Ma il 2 o il 3? Il 2, però lunedì sera, da, me l'hanno pagata. Allora il 2 non l'hanno accreditata a nessuno, perché tutti si stavano lamentando, l'avrebbero dovuto accreditare lunedì, e invece non ne hanno accreditata, l'hanno accreditata martedì a tutti. No, a me me l'hanno accreditata, lunedì sera me l'hanno accreditata. Verso le 3:30, va, facciamo, verso le 3:30. Vabbè, io di sera non ci sono andato, magari c'era anche la mia, ma non ci sono andato di sera, ti aspetta domani, speriamo che vi siano domani. No, io me la guardo al telefono lo so, c'ho il coso nel telefono e lo so. Ma io non mi fido al telefono. Se riescono a entrare gli hacker ti fanno movimenti e cose, non fa il telefono, io non mi fido assai. No, quello che ho io non è entrato mai nessuno, ed è proprio, non ci riescono a entrarci, proprio intraventivi non ci riescono. Commenti, sono entrati nel sito dell'Ips, nelle banche, figurati se non riescono a fare il conto suo. Gli hacker è già ne una più del diavolo, fidati. Ma finché là non vi sono entrati, non ho telefono mio, non vi sono entrati nessuno. Ma non bisogna aspettare che entrino, se no devi eliminare tutto. Ci entra, ci viene la presidenza di ripiare il turgone. Vabbè, però pensava non è andato nulla, sono tranquillo. E meglio così, io l'ho perso così, poi ognuno l'ha perso a modo suo. Andà bene, Luca va. Ma non metto qua nuda comunque. Te l'ho detto io, vetturai. Purtroppo è così. Abbracci Gianmarì. Grazie a voi, capite di respirare, è da tutti. E vabbè, gli avvicinano, anzi, tu le rimuni di là, se l'hanno in pesi, E là c'è il pesacqua rosa, se non mi rilascio non posso più visita. Ma tu devi vedere cosa c'era oggi da media volta di gente prendersi televisori, affettatrici, di tutte di più, quella la vita. Sono andato a prendermi un paio di cuffie io, ma la gente che c'era con questi televisori grandi, enormi, tutto l'altro si prendere giù. E dove già? La media volta, a città mercato là. Ah, ho capito. Il anda di tutti a impedire, capito? E se va cosa serve, è chiaro la loro presa. Forse magari c'è sempre la fila, ragazzi. Ma mi sembra che sono presi carica della ruota. Mi sa che prendono anche roba superficiale, non è che prendono sempre roba che gli serve, anche roba superficiale prendono. E le cuffie buone sono quelle che hai preso? Sì, sono buone, io le prendo per cantare, le ho pagate, però sono buone, sono top. Molto, posso sapere. Le ho pagate sulle 70 euro. Adesso costa la barca di quattro. Hanno aumentato parecchio. Di quanti anni fa costavano poco. Ma io prendo quelle col microfono, capito? Perché io canto, quindi mi sento dentro quando canto. E c'ho anche il microfono, capito? Ma ecco, quelli costano parecchio, allora. Forse così. Oh, già, io l'ho disinstallato. Perché? Ah, che non li posso usare. Come gli altri. E allora non ti stai più sentendo manco cosa? No. E io già mi diverto, a me non mi piace, io faccio il contest e tutto qua. Già mi diverto, tranne qualche volta che c'è qualche cretino che urla sempre. Ma non mancano mai già. Stasera stavo cantando, questo qua prende e mi stacca la canzone, me la taglia. Io come sono incazzato. Mi ha detto che era troppo lunga e che... capito? Che secondo lui era troppo lunga la canzone. Gli ho detto auguri, io ti pongo la grossi, non ci vengo più nella stanza tua a cantare. Hai guardato bene, mi ricordo ma sta parlando del giro, anche troppo lunga. Aspetta, sì, io ho soffiato il tamburo e le spiegato il giro. Lui era il padrone della stanza, capito? Siccome c'era altra gente che doveva cantare, ha detto che se no non c'è lo spazio per tutti e ci faceva troppo lunga la serata a cantare tutti qua. E gli ho detto tanti auguri, ci sentiamo. Sei stato proprio un irrispettoso, per non parlargli male. Ma forse è stato bene già. Ma non ti possono tenere la canzone mentre stai cantando, cioè ci rimani male. Purtroppo. Però che c'è un persone lo fa, non pensano a quello che succede a quello che sta cantando. Ci sono sempre i nemici. E da lui non ne vale una cica che a te dice. Ma dai. Vabbè, comunque, non sono tutti così, ci sono anche quelli cordiali che ti salutano, che scherzi, che fai. Luca già lo sa, perché Luca entrava anche da noi, nella stanza nostra. Luca! No, non mi piace a me vedere quel lato. Preferisco di più TikTok, mi ripasso di più. Con le cagliarità. Con le cagliarità. E altri cagliarità, siciliani, napoletani, milanesi, sassaresi. Ma io ho il mio gruppo, capito? Va bene, dai. Ma comunque sto entrando meno perché cioè TikTok ti blocca molti messaggi, correttimi, non sono volgari, te li blocca. Diciamo che un po' ti si girano le scatole, dai. Sì, te li blocca, lo so. se sono cose che secondo loro non vanno bene ti bloccano la frase. Su TikTok ci vado anch'io, c'ho il mio gruppo anche io, anche su TikTok praticamente c'è una di Cagliari, una di Verona, insomma ci sono diverse persone, si scherza, si ride. Lo so, ma già, diciamo che stai parlando non mi piace, non mi interessa. Adesso ho digitato, poi magari mi sale il pallino, ho rinstallo. Uno che conosce un po' di gente. No, beh, Paolo, io ne ho conosciuto. Anche di persona? Anche, sì. Dipende. Tutto dipende. Avanti, Tore, avanti, perché sei molto stasera? Può cagare, andate di fare d'acqua. Andiamo che andiamo. Ma vabbè, ognuno c'ha il suo gruppo. Invece di verte col suo gruppo, ma anda a vero, vero Giomarino? Quello di anch'io, io non sono appassionato a quello, per cui non me ne intendo nemmeno, Giomarino, se ti aggiorni magari ti ci prende anche il muso, ti fa compagnia. Non so che io stavo vedere i porti a Ossi che cantano e fanno karaoke, però tante volte li ho sentiti, ma non mi va, non mi va già, non è la mia passione, capisci, è quello che vuoi fare, l'ho fatto così io. E lo sai cos'è, che a una certa età si perdono anche, si perde il gusto delle cose. Io mi ricordo mio padre, gli avevo regalato una cipolla d'argento, una cipolla mia, comprata con la catena d'argento e cose, mi ha detto, già, e che cosa ne faccio, ce l'ho l'orologio, non prendono più gusto a nulla certe persone, a una certa età non si prende gusto. Il corpo, ti piace, ti ha fatto altro queste cose. No, non è mai piaciuta questa, io sapevo il mio fratello che piaceva fare il Spiderman, ai figli. Sì, allora parlavo e li sentivo, però qualche volta andavo per la sua famiglia. E se non piace uno deve anche prenderci gusto alle cose, se non ti piacciono, invece a me mi piace andare nei locali dove cantano, canto anch'io, dove praticamente fanno karaoke, eccetera, si mangia, c'è karaoke, si faccia la serata. Io ho sentito, sono in casa, sono lì a pedagogista, e c'era qualcuno che faceva karaoke al papa, magari ero lì. Già me la disse, me la ascoltavo, ma non è che si va da tanto, perché ci sono che vanno fatti per il karaoke. Ti piace già, ti piace. Ma tu qualche canzoncina non te la canti? Vabbè? Qualche canzoncina non te la canti in casa? Oh, quando ero viaggiato in continente con cambio, allora lì cantavo da solo. Per la noia, capito? Per svegliarmi e addormentarmi sulla strada, ma il resto no, assolutamente. Si ascolta qualche dischi, eccetera, però non si vede, parecchi anni però che mi è mancato così, non mi va più. Io per dire, quando faccio le faccende di casa, mi accendo la musica, mi fa compagnia, mi fa vedere le cose più leggere, non mi fa sforzare a fare le cose. Avanti Tore, dici qualcosa. Cosa vuoi che ti dica? Tanto è tutto così. Io per il ok già ci vado, ma no, da cantare non viene. Mi annoio subito, mi annoio e ma via, mi rompo. Vado venire, un giorno mi faccio venire. Niente allegra. Luca, ma fai così. Mi pare che Tarligui ha cantato. No, no. Sono meglio in casa a Rosolenzio. Dico sì, dice no, da voi, a quattro anni, non è un giorno, ti dico arrivederci. Allora, per te, quindi, metti una cosa, perché io una commessa che fa vita va bene. E lui ha detto, ma tu non asciutti mai, e da mi ha detto, silenzio voi, mi ha santo Paolo per me, di silenzio canto di voi, anda in chiwi. Ah, Gesù, sì. Il silenzio è la fine un bel. Oh, ma mi ha fatto vita, fa tranquillo che non mando manco io. Però a cantare, mi piace un po' ascoltare, ma non più di tanto. Eccolo già. No, io sono sempre, sempre appassionato di musica, canta mia figlia, canto io, a casa cantavamo tutti qua. E niente, adesso io sono solo e quindi qualche cosa la devo fare, no? Per farmi compagnia, io entro, vi faccio una cantata, partecipo ai conti, se mi tengo impegnato. E fai bene, ma come si ti passano una mezz'oretta. Sì, diciamo le ore. Perché quando io entro in conte, se sai quanta gente c'è in coda che deve cantare prima di te. Poi devi aspettare la premiazione, perché farò le premiazioni alla fine. Sì, vabbè, saranno i uri, che ti basta, però. Non fai muovere i gusti come affessi. Canta che ti faccia la paura. Così di zia mamma. Infatti. Salvate, signor Giovanni. Ma che ci fa fiore, eh? Assolutamente, guarda. Ma anche quando ti fa fiore, c'è venuta. Guarda. Un po' dopo mi calmava, allora. Stavo la fattoria dei filmati, che stavo proprio una telecamera che ha comprato nel milione e mezzo, guarda. Stavo già come la brutta giocola, la brutta, anche in continente, all'estero sono andato. Sono stato i tuoi filmati, non è vera. Cosa? Francesco, dai, chiudo, riprendi tu. Scusate. Ciao Giovanni, ci sentiamo dopo magari se niente, se no ritieni salutare. Avanti tu. Fate così. Purtroppo, piano piano, io non... ci sto una mezz'oretta, un'oretta, però vado a voi, mi vedo un abbate drummindo. E dico, arrivederci. Piano giorno, così. No, io già ci sto anche ci mi sto a piedi. Comunque la passione della fotografia della telecamera ce l'avevo anch'io, sin quando è uscito il digitale. Poi quando è uscito il digitale l'ho comprata la macchina fotografica digitale, anche buona. Ho preso la Canon, la D60, che è una delle migliori. Eppure l'ho regalata a mia figlia perché non mi entusiasmava più, era troppo facile da usare, troppo con la macchina manuale dovevi programmare tutto, esposizione eccetera eccetera, e questa qua ti fa tutto automaticamente, non c'è gusto. Poi la telecamera lo stesso, mi si è scaricata la batteria, non si trovava più la batteria, c'è di tutto quanto. E non ho più usato, tanto dal telefono c'è tutto, cosa di notte la telecamera, avere barrasoni appresso, macchina fotografica, ci sono telefoni adesso che fanno le fotografie meglio della macchina fotografica. Solo comprata io, l'ho comprata a mia figlia, l'ho comprata, è viaggio, no? Oggi ho delle camere a me stessi, minore ma lo stesso, arrombata. Se mi piace il burro, mi piace così. Mi pare che mi rivendo tutto il burro. No, guarda, quando finisce la batteria a comprarla nuova, questa è la marca di Sud adesso, non può avere più. È finita la batteria, la stavo usando, senza batteria avevo preso una lunga, che cosa devo fare i filmati, ho fatto il filmato al matrimonio di mia nipote. Mi ho portato la prolunga, l'ho attaccata in chiesa e l'ho fatto lo stesso filmato, però la batteria costa 11 soldi, non può bene comprarla, poi bisogna ordinarla perché originale non si trova. Io c'avevo una sua. No, io ce l'ho e funziona, ne ho due batterie, sono tutte e due i voli, ma metto a caricare lì caricano e sono buone tutte e due. Ma la salita ci provate ed è si vuole caricare e funziona, beh, funziona. E allora trattala, che se la si vede, ma guardaci. Trattala, se funziona, trattala. Io ce l'ho buttato in tutti i due al cassetto, c'è la macchina fotografica che la telecamera. Chi l'ha trovata si è fatto ricco. Perché io pellicole ci trovano poco, non ne sviluppa più nessuno, un casino, capito? È toccato digitale adesso, non sviluppano più. Io c'ho un amico che ha la camera oscura, se l'ha comprata a Cagliari, al mercatino dell'usato, l'ha trovata una fesseria, l'ha pagata, ammetto, se andava a comprarla questa camera, minimo di 500 euro non la trovavo, l'ho pagata una fesseria, mi pare sulle 60 euro, una cosa del genere. E c'è la camera oscura, ci sviluppa le fotografie, tutto quanto, fa anche con le bianche e nero. E lui li ordina da internet, perché qua non si trova. No, il manuale sta usando. No, io l'ho comprata digitale per mia figlia. E poi se l'ha fatta una base e poi me l'ha data a me. Ha detto, mi ha fatto finire un montone di idea, fa nulla. E tutto era il momento, a uscire, andare. L'ho fatto va un poco, la trattata, la buccia l'ha fatta una base. Da me, digitale, poi mi ha già avuto un paggio digitale piccoline, le macchine fotografiche. E ce l'ho qua, ce l'ho. Una giova da me pigliura. E anche io ne ho avuto due o tre qui. Ma adesso non conviene più, c'è il telefonino. Devi fare la fotografia, devi chiamare il telefonino e la fai. Adesso anche quando tu ti toccano la macchina, io subito gli faccio la fotografia, la target tu va. E uno, c'è il mio maldetta, ce l'abbiamo vista brutta, è uscito da un garage, ci ha preso in pieno, ci ha alzato la macchina e ci ha fatto sbattere delle macchine che c'erano tutte parcheggiate. Questo delinquente ha detto, guarda, io sto per andare a lavorare, ci sentiamo stasera, ti lascio il numero di telefono. Ho preso mia moglie, gli ha fatto la fotografia alla targa. E meno male, perché poi si è ritrattato, ha detto, no, forse tu stavi correndo, questo e quell'altro. Ecco, io forse, anche se stavo correndo, ma non è vero. Tu ci hai preso in pieno, sei uscito sparato dal garage, ma non un garage normale, di quei garage che hanno la discesa, no, che si scende giù. E ci è parato, ci ha guidato in pieno, ci ha preso al centro, ci ha fatto girare la macchina di lato, da qui la macchina mia si è sbattuta, meno male mi hanno fermato le macchine che c'erano parcheggiate, ce l'avrei capottato. Pensa un poco, ma c'è per fare il trattato, guarda che non faccia attaccuendo. Cioè, gli abbiamo dato manco e fa l'assicurazione, boh. Ma che sono anche qui a ritirare la patente. Allora io poi la sera gli ho dato l'appuntamento e è venuto con quattro tipi, tutti grossi. E gli ho detto, scusa, chi è che deve... Sei tu che ti sei sbattuto, quindi stavo a mettere di mezzo, ma tu, ma qua, ma là, non ti scusa, io mi sono sbattuto tu di tutto, cosa vuoi? L'assicurazione me la vuoi fare, se non sto facendo la denuncia strana dei carabinieri, ti sto denunciando subito. Ma è di mio fratello, la macchina, ma qua, ma là, sono andato all'agenzia con le fotografie, tutto quanto. L'agenzia mi ha avvocato, in una settimana mi hanno subito pagato, hanno fatto tutta la macchina in più, io ho denunciato che ci hanno dato addosso a quella macchina e ha detto che doveva pagare lui perché lui ha causato l'incidente, capito? Quindi non una ma due macchine. Secondo come te anda anche lì l'assicurazione che chiama la stradale o i vigili urbani e gli ritirano la patente. Io stavo andando all'aeroporto pure, stavo accompagnando da mia moglie e mio figlio che dovevano partire. e sono andato con la macchina con un parafango tutto gatto a Brandelli, tutto gatto cribbato, che toccava la ruota, però ce l'ho andato fino a Fertiglia per non farmi perdere l'aereo. Infatti hanno già impresa il coso, sempre lì dalla bazzina. Poi gli hanno già per i bipidi che ma regazzi la gente, in chi vi dirigiamo subito la polizia, dirigiamo. Avete che si calma subito. Ma era un tipo di cosa, non era morto di sassa, lui era a casa della ragazza. Lui era lì, che pare c'è, quello che c'è dopo Usilo, dopo Usilo. Ma non mi viene il nome, vabbè, comunque il paese dopo oggi, era di quel paese. Io ho chiamato un amico che era di quella zona e mi ha detto che era un delinquente che rubava pecore e questo e quell'altro, che era di quei bastardi, capito? Oh, e allora poi io ci vogliamo truncare durante, vogliamo truncare, o rimani. Allora sì. Sì, ha detto che era conosciuto già dalle forze dell'ordine, che era un mezzo delinquente, che aveva rubato un bestiame, eccetera. Sì, vabbè, interessante, ma già bagato. Una ghita mi ha fatto tutta la fiancata della... l'ha fiancata tutta quanta, me l'ha fatta andare di lato, sopra l'altra macchina. Ma non era giusto che quello là ci rimetteva. Ho preso il numero di targa di quella macchina là, l'ho portata all'agenzia e gli ho spiegato, trasporto, si paga tutti e due adesso. In una settimana me l'hanno risolta, lo sai. Ma poi si deve pagare, Tommy. La seconda macchina si la paga, si la paga. Tipo sciacara. Ma lo sai, perché l'assicurazione non paga. Paga lui di tasca, paga. Perché te ne pagherà una e boh. Non lo so come funzioni, però ha detto che io non devo pagare nulla, era lui che aveva causato tutto. Per cui, praticamente, sicuramente lui ci ha visto la lettera dell'avvocato a casa, ci ha cagato un giorno e ha pagato tutto. Sì, non è così. Deve avere sempre un avvocato da e infatti è così, le assicurazioni oggi giorno funzionano così. Tutti erano a Ciappo, che è di Porto Torre, che lui non era di Porto Torre, lui era di la zona di Cagliari, era con questo furgone, ci aveva il triangolo dare precedenza, è uscito fuori, io ero nella mia corsia, lui come è uscito fuori mi ha preso tutta la fiancata, l'ha fatto lo stesso. E mi ha detto che lui non mi aveva visto, che non mi pagava perché non mi aveva visto. E io già vuol dire, se non mi hai visto mi paghi un mattino, c'è chi mette il suo marcio, guarda che segnale c'è. E nel mentre stavo facendo le mie colleghe da lavoro, mi ha detto, già ti serve aiuto, sì, chiamate i carabinieri perché non riesco a mettermi lì né a contatto con loro. Sono andato in caserma, li hanno fatti venire e hanno preso tutti i dati. Dice, ma cosa facciamo? Interveniamo noi o li fa l'assicurazione? Perché guarda che segnale c'è, se interveniamo noi dobbiamo fare la multa perché non ha rispettato il segnale, due deve pagarci la macchina, tre gli facciamo un'altra multa perché c'è l'assicurazione scaduta e non so che cosa, cioè alla fine ha detto no, va bene, la faccio, gli faccio l'assicurazione, la pago stasera e poi domani gli faccio la denuncia. E niente, poi sono andato, meno male che gli ha preso il nome, lo stesso, il cognome, quello dei carabinieri. Non mi ha dato tutto falso, non mi fa scusare. Quando io per la circolazione mi ha telefonato e mi ha detto che non esisteva questa persona con questo furgone, non esisteva. E allora sono andato di nuovo dai carabinieri di Porto Torres, sono aspetti che ci pensiamo noi. Hanno chiamato i carabinieri della zona sua e hanno detto, allora adesso ne lo diciamo noi, se non fa la circolazione andiamo e li mettiamo i ferri, voglio vedere se vi conviene. Oh, subito me l'ha fatta la circolazione. Ma hai fatto gaga sotto, ma hai fatto gaga. Se non hai detto ben paziente, io dico, io non ero vostro, io dico, Sorrange, ah voi invece contattate con i carabinieri a vedere se la fate. Sì, c'è gente che fa proposte anche quando c'è i carabinieri, non si mette la banda così, se c'è tutte persone che gli mettono anche le mani addosso. Io ho visto una storia in Piazza Castello una volta, questo qua con una macchina grossa, si avvicinano i vigili urbani, gli chiedono i documenti, e trovo io i documenti, non te ne ho prepotenti, capito? Non tenendo documenti, chiama chi ti piace, vabbè, chiamiamo la centrale, chiamano la centrale, fanno arrivare i carabinieri e ha fatto il prepotente tecnico dei carabinieri. E il carabinetto, adesso o fa quello che gli sto dicendo io, gli mettiamo le manette e lo portiamo in caserma e faccia come vuole, la rimpressione si è brincata in alto e la rimpressione di manette se la ricaricate in macchina. E dopo vediamo chi è. Niente prepotente, proprio. Ma magari si veglia proprio che... Io che su sta si veglia dentro, nella camera nera. Come te la chiamano, nella camera nera. E gli sta passando le mani pure lì. Gli sta passando le mani. Quando ce l'ho andati a prenderlo per vestire le mani, gli sta passando le mani. E voi e mi hanno picchiato, e dove? Non vede i segni. Dice, che mi ha toccato lui, no? Era tutto pieno di libidi. Ma la macchina si fa una Ferrari, dai, così, quelle sportive, non so se era appunto una Ferrari, o se era una Porsche, qualcosa del genere. Ah, era sicuro di sé, ma io non ti do niente, tu chi sei? Io sono un carabiniere, tu mi devi dare i documenti perché te li sto chiedendo, io non te ne do. Sì, ma i carabinieri... Tu buttai giù in caserma con la stanza nera e ti ricordi la chessussa. Perché non dici, non lo so cosa ricompeni. No, io l'ho visto come hanno fatto, si sono guardati, si sono capiti allo sguardo, li sono brincati in atti e danno i buci di manetti giù. Si sono brincati in atti e danno da girarci, ma l'hanno filmato, e l'hanno in due. Stanno filmando e te l'hanno caricato in macchina. Dobbiamo portare un l'identificazione. No, io non vengo da nessuna parte, era per il prepotente che si sono mai dati. Se ti sono brincati per tirare i buchi di manetti. Niente prepotente. Ma com'è, non l'ho mai avuto di questa niente di buchi? Me l'hanno fatta subito a me. Una volta solo c'era questo qua. Che si andava per andare in Viale Prodotose per andare sulla strada 131 e andare. Invece di girare, ha fatto le due dove c'erano le due strisce, ha girato da sinistra e mi si sono cutti a dare e mi si sono cutti. Cazzo, io sono pure a pagare. La mamma non sapeva nulla che era la macchina della mamma. Ma lì, telefoneggiare a mamma, che non me la sa bene, faccio mai il giro mandano figlio. Beh, succede che mentre la strada trovi delle persone, possibile immaginarvi. E tu, questo qui era di Santa Margherita di Pula, me lo sono ricordato adesso. Certo, buoni, mi? Buoni, sì. E viene gente brava e viene gente delinquente. Vedi tutti più delinquenti. Allora, tu hai presente uscendo da Porto Torre, prima non c'era la rotatoria come c'è adesso. Io avevo superato appena dove c'era la rotatoria adesso, appena più su. Lui è uscito da dove c'è Maddauli e voleva fare l'inversione dove non si può fare. Capito perché mi ha preso? Io ho cercato di evitarlo, ma non ce l'ho fatta. Io stavo ero in corsia di sorpasso e lui ha girato verso, preso di scendere verso giù, capito? C'era la doppia linea continua lì, non poteva manco girare oltretutto. E più c'era il cartello dare precedenza a quello sul triangolo, adesso non so se ci sia ancora perché hanno cambiato la segnaletica e ci sono le rotature. Eccomi qua già. Ah, ti hanno mollato. Mio genero. Che è andato adesso, va. Io stavo parlando di gente prepotente quando si sbatte con la macchina, Giovanni. Mamma mia, che... Oh, yeah. Come lo dirò? Non dite che c'è Piazza Castello. Aveva una macchina tipo una Ferrari, una Porsche, una di quelle sportive. E si sono avvicinati i vigili urbani perché era parcheggiato dove non poteva stare. Gli hanno chiesto i documenti e non era voluto dare. Detto che lui non gliene dava i documenti. i sette gruppi, io vedo come te facciamo vicino un bar. Hanno chiamato i carabinieri, ci hanno fatto i carabinieri, e anche con i carabinieri ha fatto prepotente. Alla fine i carabinieri ci hanno mandato in faccia, al volo ci sono trappati, ci sono brincati in atto, la dibuccia rimane e si è ricaricata in macchina. Allora, la prossima volta impara. Che ne so parecchio, tanto io tanti anni sono in conto e si credono che siano un po' più corti. Hanno fatto bene. Ma tu devi sentire cosa gli ha detto i carabinieri. Siete servi dello Stato per 1200 euro di vidazzini, siete servi dello Stato, gli sappia bella che va a vedere in un barretto, li stava proprio provocando. Avanti, sono avanti. E invece andava a furare, andava. E guadagnava per l'idea della droga, guadagnava. Ecco cosa è. Perché se no aveva visto che aveva fatto un burrito. Per me aveva a me qualche benessere del nome, che magari risalisce qualche cosa col nome, capito? E ma c'erano portato per l'identificazione in questura. Praticamente non lo so, mi si da pure analizzando cose, però l'hanno portato in questione a identificarlo. Se non è che l'aveva furata la macchina pure. No. Quando si fate il prepotente così, si va a essere padre eterno, da poi diventare minori di diventare. Già ci sono persone che conoscono le leggi, molte volte i carabinieri non li sanno applicare le leggi. Io ho visto la storia adesso, poco, in Sardegna, in questo mercato. Che questo qui è andato a pagare con i liquidi e dice noi non ne accettiamo liquidi, deve pagare con la carta. Come non accettate i liquidi voi lo dovete accettare perché sono in circolo ancora. Hanno chiamato la finanza ha detto le dica che i liquidi li devono accettare, anzi aspetti che glielo faccio il passo al telefono, gli ha detto che questo qui era un ordine che avevano dall'alcol, l'azienda, insomma tutto un casino, sono giunti i carabinieri e l'hanno detto quasi ragione al proprietario, perché ha messo il cartello che per pagare bisognava comprare questa carta che avevano loro, come se io voglio andare in un altro supermercato perché ci sono magari le offerte, non lo posso fare perché ho la carta di quel supermercato e devo pagare per forza lì. Ma stiamo scherzando. Hanno detto vabbè, ma non c'è nessuna legge che lo vieta, allora hanno messo il cartello fuori, se voi non l'avete visto. Sì, ma questo qui ha detto scusi, ma per pagare la carta che vendono loro i soldi li prendono, e allora perché non è la stessa cosa se li prendessero alla cassa. E questo è rimasto un dito questo carabinieri, non so mia cosa. Io ma come la pago con la carta mia io? A pagare con le carte che vendono, non mi fido. Mi sembra che era di Terrapa questo supermercato. E praticamente non so come è andata a finire, cioè, poi ha detto questi qui, ha detto, si ricorda una cosa, che qua in paese siamo in fuga. Questo supermercato ne lascio poco tempo per quanto dura, perché adesso se si mettono d'accordo tutti i paesani non ci va più nessuno, voglio vedere cosa gli succede. Ma tra valla non è tra niente là, ecco cosa è la merce se la mangia. Infatti, ma quando mai uno deve mettere questi tipi? Perché per ragioni di sicurezza, per le rapine, per queste cose qui, stanno mettendo queste carte qua, di modo che se arrivano a rapinare non ci sono su. No, così è. No, non puoi mettere, non puoi costringere la gente a pagare con quelle carte lì. Ma poi deve essere scritto, prima di fare la cosa, quello deve guardare anche i cartelli, deve essere scritto, questo si paga con la carta e questo si paga con il bambino. No, Gian Maria, tutta la merce che tu prendi la devi pagare o con la carta che ti danno loro, le fanno da 50 euro, da 20 euro e da 10 euro le carte. Quindi tu per prendere le carte che fanno loro devi pagare quei soldi. Quindi questo cosa ha detto? Se paghiamo quei soldi per prendere la carta possiamo pagare anche la spesa quei soldi o no? Okay. ma dura poco, perché poi la mentalità dei paesani è uguale. Se la pensa uno, poi si la pensano in tutti i gusci, si mettono d'accordo e non ci va più nessuno. Ah, quello è certo. La guerra è fallimento, va bene. Comunque questi lenti che fanno, mi fanno solo cose strane, boh. Evidentemente lo fanno per interesse, per la sicurezza già. Loro hanno detto che si tratta di una questione di sicurezza, per le rapine, per queste cose qua che fanno. Però c'è una cosa, se vengono a farti la rapina e tu non li dai soldi, c'è la caccia, non li dai soldi, che si parano, anche si cazzano. Ma gli dai poi i soldi come hanno fatto da noi. La commessa, quella della salumeria, sono andata al cortile, quella della salumeria gli ha puntato il coltello, c'era il coltello dalla mano e la pistola all'altra. L'ha portata sino alla cassa, erano in due, l'ha portata sino alla cassa, ha puntato la pistola alla cassiera, apri la cassa e quella lì, c'è pappinata, si è fatta a lui, a gomento il bavarone, c'è pappinata e non riesce a cercare l'operatore per aprire la cassa. Questo si è incazzato, apri la cassa! C'è con la pistola in mano, dice che c'è, va, si è fatta addosso. Che fatto se non ha fatto addosso? Io faccio un primo. L'avevi avvisato in tanto, l'avevi avvisato. Oi, oi, oi. Vabbè ragazzi, io me ne vado a prendere le pastiglie. E chiudo. Ci risentiamo alle prossime. A Babbo Natale ci sentiamo. Ok, ciao. Ciao, ciao, ciao. Buona pasticcata. Avanti Giovanni. Ciao, ciao, ci sentiamo là. Buona pastiglia. Allora, aspetta. Oh, per carità. E un macello è ciò. Già, un macello, se capisci più di te, io pago il contante, non ne ho cazzo. Ciao, però no. Non decido, capisco, per cui quando vado a fare la spesa pago solo il contante, ma tu se te lo pagare il contante, anzi pagare con la cassa non tutto per il ruolo. Anche io faccio così, mi ritiro i contanti, pago i contanti, so quello che spendo, quello che ho, quello che spendo. Con la carta decido di ritirare, non prendi mai con carta in piso. Infatti, quello è. No, non l'ho mai usata, però ma non l'ho mai usata. E forse per me va bene, invece molta gente usa abbastanza e evidentemente è contrattivo, dai. Ah, io già la uso qualche volta, quando devo fare spese grosse e cose la uso. Però per fare la spesa al supermercato uso sempre contanti, non uso di carta. Almeno che magari non abbia ritirato e allora devo fare la spesa, uso la carta, quando mi serve proprio in esclusiva, ma se no non ne uso, non è che la usi sempre, capito? Come fanno certi che usano sempre la carta, come la mia collega che hanno rubato 10.000 euro. Porto Torres, mi hanno clonato la carta, c'era un esempio di sul camper parcheggiato, io passavo col camper, si diceva ma questo camper sempre fermo qua e sai le inutili cose, no, tra di te le pensi, beh lo sai cos'era, l'organizzazione erano come si chiama, albanesi, mettevano delle micro telecamere nel coso del banco, ma alla banca, no? Mettevano delle micro telecamere che praticamente erano collegate con questo macchinario che ci avevano dentro questo camper e clonavano le carte, poi andavano, ritiravano e partivano, capito? Lasciavano il cappellino e partivano, si spendevano i soldi, poi ritornavano e facevano la stessa cosa. Meno male che erano assicurati i soldi della banca e li erano tornati, ma dopo un po' di tempo. Questo per me è cattivo. Avanti per sapere quello lì. Vedi la persona. Però che poco è, che poco per cui bisogna sapere le carte. Grazie, c'è troppo poco per cui ma usa poco e niente, ecco, tutto lì, per cui no, è meglio così come faccio io, grazie, per cui è tutto un'altra cosa, ecco. Grazie. Ok, grazie. sotto lo stregale. Sì, sì, io ci ho detto che c'è la carta di credito in banco, però la carta di credito non la so più usata, prima la usavo più spesso, perché la carta di credito ti riprendono il mese dopo i soldi, capito? E non ti sai regolare, è un casino, il mese dopo ti trovi cittadinanza e quindi la uso di meno, invece il banco ma qualcosa in più lo uso. Però è meglio farsi una carta a parte, come ce l'ha mio figlio. Se deve comprare qualche cosa su internet, carica solo i soldi della roba che deve comprare, la paga e basta, e poi non trovano nulla, anche se vanno a rubare non trovano nulla. E magari tu lo sanno, lo sentite come stanno di questa carta, se va avrebbero fatto. Non dico che l'hanno tutti questa carta, ma se pagano sempre con la carta, ma io le hanno detto, no, si trova di meno perché è così, tu fai il contatto e basta. Da così no, così tu sono tranquillo più la carta. Sì, vedrai che li toglieranno i contatti, pure. Piano piano li tolgono, la gente è obbligata a pagare per forza con la carta, perché adesso vogliono sapere quello che spendi, come lo spendi, vogliono sapere tutto, capito? Quindi ti controllano. Ritoccare di poco, devi per carità, per capire più niente, già è vero, già. Gira, tolgono tutto, sanno tutto, quanto spendi e quando lo spendi, e quanto stai, capito? Me l'hanno detto che è molto graziato, poverino, mi dispiace, era simpatico. Infatti, Marcello, per carità, ma tu devi tirare il coverato. Era diventato di magro, e magro, per carità. Poi va per essere sapere meglio che se ne sia andato, vai. E aveva un po' di patologie, c'aveva il morbo di Crohn, c'aveva diabete, però lui non rispettava, e lui mangiava di tutto e di più, di più della roba di ghida. No, ma ultimamente era regolare, ma come lui faceva ancora altro delle pastiglie, anche per dimagrire, e mi sembra che queste pastiglie abbiano fatto qualche cosa, però meno. Io ho pensato così e qualche volta ho pensato così, non si sa, comunque ci sono venuti questi cose alla marcia e poi ho passato il respiro e 5 minuti ci ha messo. Poi, poveraccio, vabbè, purtroppo la vita è questa, ne vogliono tanti giovani anche, molti giovani stanno morendo, non si comprende, ci sono questi vaccini che ci hanno fatto, ma un dottore l'ha detto chiaro e tutto, che questi vaccini che ci hanno fatto risvegliano anche i tumori dormienti, quelli che non si dovrebbero svegliare, li risvegliano e ti fanno andare in metastasi tu. Loro già lo sanno, ma però boh, ecco come fa a saperlo già, per carità. E vabbè, di passaggio siamo già, per cui quando arriva lui ha pazienza. Alla prossima, ciao, ci sentiamo. Ciao, buonanotte.